12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi parleremo di come intraprendere la professione del fumettista. Cercheremo di capire qual è il percorso di studi, se c'è da intraprendere, quali competenze sono richieste e come funziona questo lavoro. Lo faremo insieme a Claudio Calia, fumettista e creatore di siti web. Per prima cosa ci siamo chiesti cosa sia necessario per diventare un fumettista e facendo una ricerca abbiamo capito che in primo luogo bisogna avere un talento di base e anche una buona scuola. Esistono diverse scuole in Italia per diventare disegnatori di fumetti, anche se nessuna è collegata ad una casa editoriale, quindi in grado di garantire poi un posto di lavoro, anche se sicuramente la formazione è il primo passo per poter intraprendere questo tipo di professione. Esistono poi anche molti seminari, corsi e laboratori che possono diventare delle ottime occasioni, più che altro per ottenere le giuste informazioni riguardo a questo tipo di lavoro e anche appunto per conoscere poi chi questo mestiere lo fa. Per fare il fumettista quindi non bisogna solo essere bravi a disegnare, ma bisogna anche sviluppare una buona conoscenza teorica della storia del fumetto con i suoi personaggi e i suoi stili. Bisogna avere anche una buona conoscenza degli strumenti di lavoro e delle tecniche, nonché anche nozioni di anatomia e concetti sulla narrazione per immagini. Insomma, bisogna possedere un bagaglio culturale e tecnico abbastanza vario. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Dopo aver fatto una panoramica generale di questa professione, cerchiamo di capire esattamente cosa significa fare il fumettista, dando il benvenuto al nostro ospite Claudio Calia. Ciao Claudio, benvenuto a 12 minuti. Ciao, ciao a tutti. Claudio, ci racconti un po' chi sei e che cosa fai nella vita? Beh, chi sono? Allora, Claudio Calia, realizzo libri a fumetti, la mia ultima uscita per Becco Giallo è Dossier TAV, una inchiesta giornalistica illustrata sulla questione del TAV in Valsusa. Questa è stata un po' la mia passione da tempo, questa cosa del giornalismo a fumetti, per cui sulla mia produzione libraria, diciamo, sovrasta questo tipo di contenuti. Ho cominciato con un libro su Porto Marghera, sempre per Becco Giallo, ricostruendo la storia del petrolchimico, poi sempre per Becco Giallo un'intervista a fumetti a Antonio Negri, e questo Dossier TAV appunto è il terzo libro che faccio per loro. Poi in realtà ho fatto anche altre cosette, curo delle antologie, sono molto appassionato riguardo ai temi dell'autoproduzione e del fumetto emergente, per cui ho curato varie antologie di emergenti, e poi sì, ho realizzato anche altre cose, insomma, scritto da Luana Vergari, Caro Babbo Natale, che è sempre una storia che si rifà a un evento realmente accaduto in Alaska, una strage di Columbine non avvenuta, però reale, in una scuola media dell'Alaska, e poi niente, sperimento cose, una delle ultime uscite è anche Piccola cucina cannibale, un lavoro strano insieme al poeta Lello Voce e al musicista Frank Memola, che tra l'altro si è aggiudicato il premio letterario, il premio Napoli dell'anno scorso, e è una delle poche cose a fumetti che si è riuscita a vincere anche premi non dedicati esclusivamente al fumetto. Beh, complimenti, nel senso sicuramente sei molto impegnato e molto attivo, ecco. Claudio, cosa vuol dire esattamente fare il fumettista? Vuol dire fare un sacco di cose, nel senso che il fumetto, con il fatto che richiede capacità chiaramente sia nella scrittura che nella resa grafica, ma anche non solo la resa grafica, è una definizione in sé limitante, nel senso che ogni autore di fumetti, ogni disegnatore deve essere anche un po' designer, un po' architetto, un po' disegnatore di moda, perché no? Insomma, nell'atto di usare il disegno per raccontare una storia si applicano poi più tipi di competenze anche di generi molto diversi. Ecco, sì, quindi insomma, ecco, fare il fumettista non è semplicemente disegnare, no, il classico fumetto, forse quello che un po' tutti si immaginano, ma poi insomma dietro ci vogliono appunto altre competenze, altre abilità anche molto diverse tra loro. Claudio, ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi rientriamo qui in studio e scopriamo come si può intraprendere questa professione. I drink to remember, I smoke to forget, some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head, something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive and I'm here to stay. So I hold two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all away. I got out, I'm alive and I'm here to stay. He's down in the kitchen, drinking white lightning. He's with my mama, they're yelling and fighting. And it's not the first time I'm praying for silence. Something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive and I'm here to stay. So minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti e nella puntata di oggi stiamo andando alla scoperta della professione del fumettista e siamo qui con Claudio Calia, appunto fumettista e non solo. Claudio, nella prima parte della puntata ci hai raccontato un po' cosa vuol dire appunto fare questo mestiere, per arrivare a questa professione, non so, c'è un percorso formativo che si può intraprendere e comunque che possa aiutare a intraprendere questa carriera? E chiaramente serve prima di tutto un forte interesse, una forte passione. Bisogna dire anche che il fumetto in sé è molto difficile che lui da solo, quantomeno per me non è così purtroppo, che lui da solo possa essere il mestiere di una vita. Sono pochissimi quelli che lo fanno. Può essere una parte anche importante poi per me del mio mestiere quotidiano, diciamo, però poi appunto in base anche a quello che si diceva prima, per fare i fumetti servono tutta una serie di competenze che poi possono essere applicate alle più varie forme di lavoro nel mercato. Io nel dettaglio scrivo per mestiere, scrivo per il web e senz'altro fare i fumetti, e per cui già dover essere costretto a ragionare di sintesi per mettere i testi nelle nuvolette e a ragionare di diciamo logiche più ampie per costruire narrazioni lunghe è senz'altro una cosa che mi ha aiutato poi ad approcciarmi anche a un altro tipo di mestiere. Certo, Claudio, ma secondo te, o non so se tu, se la tua esperienza è stata questa, se hai frequentato magari dei corsi o comunque una scuola, non lo so, secondo te questo chiaramente può... sì, io ho fatto il liceo artistico, intanto come base forte, e poi io ho frequentato un corso, io sono originario di Treviso, ho frequentato un corso in cui gli insegnanti erano Omar Martini, che poi è diventato il fondatore della casa editrice Black Velvet, e Massimo Perissinotto, che è un autore veneto molto attivo su Frigidaire e tipi di riviste così underground di questo tipo. Devo dire, non è, a differenza di come si potrebbe credere, per fare i fumetti in sé non è obbligatorio partecipare a una scuola di fumetto, è molto più sensato avere in mente cosa si vuol fare. E ecco, nel mondo del fumetto c'è questo rito particolare, no, delle fiere di fumetto. Io sono stato molto fortunato perché crescendo a Treviso avevo Treviso Comics sotto casa praticamente ai tempi, e nelle fiere di fumetto è un rito abitudinario quello dei giovani autori che girano per gli stand degli editori a far vedere le loro tavole. Ecco, infatti proprio una cosa che volevo chiederti è poi appunto dalla formazione come poi poter entrare in questo mondo lavorativo, quindi sicuramente mi pare di capire che uno dei modi è proprio quello di essere presenti in questa occasione un po' per farsi conoscere. Assolutamente sì, e questa cosa è una via di mezzo in realtà tra la ricerca del mestiere e la formazione, nel senso che non c'è parere più importante di quello degli autori che ti possono guardare il book e dirti cosa funziona e cosa no. Io nel dettaglio, sin da giovanissimo, appunto con questa cosa di avere Treviso Comics sotto casa, ho avuto la fortuna che ogni anno potevo far vedere le mie tavole a Giuseppe Palumbo o a tanti altri, insomma, autori del fumetto italiano, e in base alle loro critiche, al loro smontare il mio lavoro, ho potuto imparare negli anni, insomma, fino a farmi uno stile mio, ecco. Certo, quindi insomma un giovane che volesse intraprendere questa strada, ecco, un po' il consiglio che possiamo dare è quello, ecco, di essere presente in questa occasione, di farsi un po' conoscere, ecco, un po' per poter entrare, come si suol dire, nel giro, no? Cioè, nel senso, non c'è un percorso lineare dagli studi a poi appunto, non so, stage, cose di questo tipo in questo settore. No, esatto, non c'è, sì, appunto, non è una cosa così lineare, e è un tipo di mercato ancora in cui il più grande motore è la passione. Certo. Claudio, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per le informazioni che ci hai dato, e ovviamente in bocca al lupo e complimenti per tutti i tuoi lavori. Grazie a voi, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi fosse interessato a intraprendere la carriera del fumettista, vi segnalo la Scuola Internazionale di Comics, Accademia delle Arti Figurative e Digitali di Padova, al sito www.scuolacomics.it, che propone, tra le varie attività, corsi appunto di fumetto, animazione, sceneggiatura ed illustrazione. Per gli studenti che riceveranno le migliori valutazioni, sono previste borse di studio come contributi all'iscrizione per il secondo e terzo anno, e al termine del percorso di studi viaggi a Cuba presso l'Istituto Statale di Cinematografia e Animazione, e appunto cubano, o in Giappone presso il Tokyo Animator College. Vi segnalo anche l'Associazione Venezia Comics di Mestre, che organizza corsi e workshop per acquisire o migliorare ed approfondire le competenze richieste ad un fumettista. Per informazioni potete consultare il sito veneziacomics.com. Vi segnalo infine il concorso Vite di Venezia, promosso dal Consorzio Vini Venezia. Giovani fumettisti dai 17 ai 25 anni potranno presentare una storia di 4 tavole facciate realizzata a fumetto con tecnica a loro scelta, che rappresenti, a loro modo di vedere, una storia di vite, inteso nella doppia accezione di esistenza e pianta, nella città di Venezia o nella Laguna Veneziana. Le tavole, che saranno giudicate migliori da una giuria qualificata, avranno opportuna visibilità in occasione del Vinitaly 2013 presso lo stand appunto del Consorzio Vini Venezia, dove si terrà anche l'evento conclusivo della manifestazione. Il comitato di giuria è presieduto da Matteo Corazza, fumettista e regista ed insegnante presso la Scuola Internazionale di Comics, Accademia delle Arti Figurative e Punte Digitali di Padova. Il termine ultimo per l'invio è il delle tavole è il 15 marzo 2013, quindi ci sono ancora pochi giorni. Per informazioni potete scrivere a consorzio@consorziovinivenezia.it. E per oggi è tutto, prima di salutarvi anticipazione sulla prossima puntata che sarà dedicata al lavoro nel settore del turismo. Quindi chi pensa ad un lavoro anche stagionale, mi raccomando, non perda il prossimo appuntamento. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.